Ma è caduto dal letto e si è strappata la testa e c'è un po' limite di taglionetto nel cranio e quindi non ha tenuto in ortopedia, dopodiché non so, diciamo che forse mal di stomaco e c'è una metastasi lì allo stomaco, capito? E quindi mangia poca roba, però piano, se mi fa di male lo stomaco, capito? Ormai non è che lui è morto, penso 3-4 mesi, 6 mesi massimo, non di più. Cioè non dura molto? C'è un tumore, capito? Quindi mi ha dato che si allena, non puoi neanche operarla, non può fare nulla, ci ha portato 4 anni, è magra, capito? Non sta mangiando quasi nulla, mangia poca roba, mangia. Ma da che cosa ha detto tumore? Da cosa è accaduto oppure di averlo già riscontrato prima? L'ho provato. C'era questi mal di stomaco strano, poi questi capogì, capito? Una volta nel salato comunque, quindi lì non diceva niente, chi si racconta la dottoressa quando ha letto il referto medico, capito? Io ce l'ho come quando va lì mi conta la pisella. E l'urologo? C'è il ginecologo? Ho capito, E vabbè, non trovo le sole. No, io ce l'ho a Chicco a Gervasi. Io ce l'ho preso a Chicco perché ci conosciamo molto bene e quindi ho scelto lui anche se mi viene a Pasquale, poi non mi fa niente, tutto attaccato dove abitavo io prima. Fatto un saluto alla Via Pasqua di Cana, stamattina perché sono andato lì al Grass Point, come credo si chiama, all'appuntamento per lucidarmi i fari della macchina che avevamo fatti nuovi, se non erano appena comprati, erano giallini prima. E sono andato in garage, anzi, mi ha visto uno che abita lì nel palazzo. C'è l'acqua e poi via di notte si è allagato tutto, si è lavato la moto e si è lasciato come ne fa aperto, cazzo, tutto sotto le cantine, tutto allagato, cazzo, ma dimmi dove ero, ma io con che cazzo ho a che fare? Ho provato a telefonarlo stamattina, se mi risponde al telefono che non ne prendo la chiave, guarda. E capita a volte, tu figurati di cosa mi trovo a dovere. Una mattina si è spaccato il fibre della scarpa a bagno, i sei di manzano, cazzo per il peso, sembrava una tartamola, sembrava tutto. Poi dove c'è uno solano non ce n'è, no, perché era tutto quanto in legno, quindi l'acqua che c'era una casa ci è scesa anche giù tutta intera, e è scesa fino al negozio, a piano terra, lì dura giù giù. E poi so tutto c'è uccidesi. Ti sono assustato, chiamo i pompieri. Cosa deficiente, cazzo, ho detto quando gli ho dato, ho detto stai attento, quando apri l'acqua chiudi la saracinesca, perché il rubinetto magari, sai, può anche non tenere, chiudi la saracinesca, c'è la saracinesca, io ho messo la saracinesca proprio con la valvola per arrestare l'acqua proprio sotto, non arriva acqua, l'ho detto proprio diretto, della diretta, cazzo, ha tagliato la saracina scambica e il rubinetto a bicca, poi se si è lavato la moto, poi è riuscito a asciugarla lì sotto, dove c'è l'aria, insomma, fuori, e ha chiuso il garage, se n'è andato, si è fatto controllare che l'acqua stava scendendo, allucinante, cazzo, allucinante, ha legato tutto, ma ha detto, cazzo, ma c'è che ho fatto un anno fa, ha detto la ragazza tua, ma che cazzo mi ha dato il garage, ha allagato il dutto, tutto l'intercapito di piedi d'acqua c'era. E piano il maggio, tu stai dicendo che perché ti fa tanto, ma me la mi viene venuto la vita perché ti ha fatto la in casa, mi ha fatto lui, mi fa, dice anche la cosa è successo, ho detto, non so cosa è successo, ho detto, siamo tutte si mettono a fare al bagno, detto, e mi sono trovato in spiaggia. Ho sentito da poco dove non sa nessuno, ho capisato la porta e mi ha chiamato a me, una vergogna. Allora, appena la chiamata, che voleva chiamare il pompiero, la chiamata, il chiamato il pompiero, gli ho detto, cazzo, ti apro. Allora, piano piano ho preso, ho cominciato a raccogliere acqua col secco, così ogni figura, col secco, buttaccio nel cesso, è stato quasi 2 ore e mezzo mi. Acqua da asciugare, sono stati 3 giorni, asciugare in 2 per fare il problema. Io andavo al primo, c'era il piano di sotto, c'erano i cinesi, ci sono passati quelli, e anche addirittura un negozio di... che non ha fatto casa mia di cosa, di come si chiama, Tataruga, anche quello che è passato. No, fortunatamente ci sono, Vanni aveva fatto i tombini sotto, no? Questo per la raccolta dell'acqua, perché c'è lo scivolo a scendere, quindi prima di arrivare ai garagi, magari piove molto, quindi giù ci sono i tombini di raccolta con proprio le vannefoni eccetera, qui sono i tercappini. Tutti i tercappini della ragazza c'erano, c'era tutta la notte parendo di Reva, poi tutta la notte scendendo l'acqua. E quindi Vanni ha chiuso direttamente la mandata giù ai garagi e poi ha chiamato a lui, a questo ragazzo. Perché dice che io ci avevo il telefono spento, io ho chiamato, non io trovo. Vanni è l'imprenditore, quello che ha costruito io, non glielo so fare. E quindi niente, nulla. Senza Giuseppe, mamma mia, Giuseppe è vinto questo. Boh, guarda, facci la grappa, c'è un vicino per tutto il mondo, infatti l'avremmo dovuto, l'ex sindaco, l'avvocato lì, Giuseppe MCDA. Ci ragazzi, c'è un vicino, usato 30 garage a poco, tu pareva il giardino me l'entrata, e detto Giuseppe, me la c'era pulita. Ma non è quello il problema, che ho già innaffiato io, gatto, mi ha lagato tutto. Per carità, guarda. E lasciamo la stessa mattina, io niente, lascia proprio, figurati. Adesso ho chiamato stamattina, non mi ha risposto, ma già un disengage, tanto quanto ne abbiamo oggi, poi ce l'abbiamo sì, vabbè, alla fine invece fino a ce ne arrivare su di, quindi già lo sistemo io a lui, sono io attacco l'acqua, non si può in carreggiata o via cacquera, perché non deve danneggiare a nessuno, non deve rompere la palla a nessuno. Cazzo, mi dispiace anche a me per tua madre, beh, anche PKS. E quindi ce l'hai a lettera, ci siamo passati anche noi, io c'avevo mia suocera, Galetta, poi abbiamo deciso di metterla, deciso, il figlio che c'aveva a casa di riposo ha deciso di metterla lì. E lì se n'è andata, purtroppo è un casino. E tutta la mia suocera, 80 quanti anni ha? 84. La mia suocera 83 anni aveva. Quando è morta ne aveva appena fatto 84. Sono sicuro. Mamma fa da 43 kg, non è che ti sei molto magra, quindi sicura di tutto. E anche l'ospedale mangiavo appena appena, poi veniva mal di stomaco e mi trovi anche la vomitare ogni tanto del capito, non per quel tanto non entra più ormai, mi fa male proprio quando mi fotti a tuccia lo stomaco. Cose brutte sono, cose brutte, purtroppo dovevo fare, non sapevo, pensavo che mi avevi detto che era caduta, però pensavo che fosse tutto legato alla caduta, questa convalescenza, non pensavo avesse qualcosa di più grave, hai capito? Vabbè, e così aveva, e così, quando lui chiama bisogna andare. Ecco, già è vero, infatti non mi sono trovato per niente, grazie a Dio. Pensate che sono sempre avanti e indietro, una cosa all'altra, tra il lavoro del comune, lavoriamo con Daniele, poi quando non entro qua devo assistere a mamma, quindi a mezzanotte stamattina mi sono sentito male. Stamattina sono andato a lavorare sono arrivato alle 7:15 per recuperare un 4 ore in più, figurati, e quando era mezzogiorno, le 11:10. Beh, sono tutti e tranquillo, come fa passate le elezioni per andare a casa, ho cominciato a sentirmi male. Ho arrivato un po'. Allora, ho cominciato piano piano a cambiare la voce, sono andato a farlo, mi sono bevuto una birra piano, piano piano fresca, e mi sono tirato un specchio di salute e mi sono ripreso. Infatti ho fatto già male, perché io la prendo e mi ha detto sono qui resistito, e quindi ho fatto così. E poi sono andato qua direttamente a casa. Ci sono stato arrivato ancora la carla mia, quel tiro. Questo è il 2002, ma almeno mi sono ripreso. Io col caldo non c'era, siccome la tettazione lì di fuori, no? Sparando con il terra, capito? E quindi mi stavo sentendo male, all'ultimo proprio. Forse magari perché ero sempre la testa in giù. Quando stai con la nata dell'albero la testa la metti in giù, capito? Te ne applicati. Era un caso vero. Per carità. Ma ti ho chiamato un paio di colleghi, un altro qua. Fatela a casa dove c'eravamo lì. Alla Erroli, Burti, Maltici, quei posti che sono bassi. Cazzo c'era 40 gradi a mezzogiorno, 40 gradi. Mamma mia. E tu, vabbè. Avrei preferito essere con voi, non me la fotti nulla di... del caldo, no? Lo soffro, ma lavoro, faccio finta di niente. Non c'è che stare così buttato a casa, cosa ci vuoi fare? Purtroppo è così, vabbè, pazienza. Da Carlo, dove andavamo noi? Lì in Viareggio ci siamo andati. Esatto, sì, sono andato lì. Ci vado lunedì, questo è andato oggi, giovedì. Adesso ci vado nuovo lunedì prossimo, ci vado, c'è il bambino lì all'Ippono, non c'è, non mi pare entrare da dentro. Anche perché poi magari ti viene magari il piegato del comune, il piegato che lo dice, hai capito, come me ne vado a bere fuori. Perché se andare a casa poi mi trovo bene, di là non mi fido molto, anche perché a parte che c'è, lì ci siamo io e l'altro che stiamo lavorando, poi ci sono 4-5 piegati proprio del comune, capito? Che fanno il manutentore e cose del genere, non mi pare che non mi bella nessuno, loro già vanno a bere, che ho visto stamattina, se ne vanno a 5, non bevono, capito, fanno finta di nulla, intanto si assentano, fanno il responsabile, e a me fare queste cose a posto del lavoro non mi è mai piaciuto, preferisco aspettare, quando finisco di lavorare, più faccio quello che mi pare che piace, ma fammi vedere che entra al bar, cose del genere, nel posto del lavoro, no, assolutamente. No. Sono d'accordo con te, è una scelta giustissima, va bene così Antonio, non ti farei mai vedere lì all'interno, capito? Se vuoi bere, c'è fuori, il problema è diverso, anche che stare lì a mattanate del vento, va bene, ma sono passato con le buffe. Non mi ricordo neanche, ma non bello. Lì a Carlo, perché ero in zona e quindi sono passato. Ma non è cambiato assolutamente niente. Sempre lo stesso tran-tran. E vabbè, pazienza. Anche lì se non ci mettono in carreggiata, fate un po' di pulizia. Invece ho visto a quel fatto di Luca quando la progiona Giovanna a Cattegrata, quello Borgo. Ti ha capito. Ma la salute è venuta a casa e vuole senza casa con un'amica sua qui. Mi ha detto, ma dai parte non c'è ancora, ho detto, non c'è nessuno, ho detto, non c'è stato proprio giorno soltanto dove ma con cane. Di solito c'è clavito, ma ecco, comunque ho detto se voi ripetete il baracchino, poi bene c'è stato, ho detto anche ma ce l'ho. Ho detto vai a frugare, ho detto salvo, ti prendo un baracchino, ho detto già ti metto la gamba e... No, cazzo, c'è un'altra volta mio padre che voleva ammazzare. E io dico, ma cazzo, ho detto, non ti ha ammazzato l'altra volta che voi volete ammazzare adesso, gli ho detto. Allora ho detto fai compagnia a Claudio, ho detto la sera. No, quello che tu non ammazzare. E lui poi dice a te quando sanno di urlare che dice ma sempre cosa, io se lo ricordo gli ho detto non preoccuparti. Attenzione frequenza, ascoltate questa stazioncina di cartone che fa chiamata da ascoltatore, siamo tutti che ti hai sentito. Chi ti ascolta bene, non c'è problema. E ieri notte vi ascoltavo fino lì, quasi al Far da Paola, dai. Zona tu l'avevi ascoltato, ma io già in barra non è che ce l'ha figlio di più di quello che stava facendo, non facevo, capito? Attenzione, Claudio, audio, audio. Guarda, Sandrino. No, io stavo ascoltando lo stesso da me, ma non sono entrato, non ne avevo voglia, stavo ascoltando, avevo cervato, Fabrizio, un po' di gente, ma non ne avevo voglia di entrare, stavo ascoltando fino a mezzanotte tutti. Avanti, Sandro. Caffa. Buonasera, scusate se però Domenico non l'ho sentito. Ciao Domenico, buonasera, Sandro Parrotore, se mi ascolti. Ok, tra. Sto provando di nuovo con la bestiolina. Avanti. Sì, è buco da prova. 9:10 col K e la radio 5 perfetta, Sandro. Perfettissima, bella, chiara, forte, reclaro. Vai molto Pompas. Sì, sono stato un po' passaggio, ti controllo. Ok, aspetta che c'ho l'eco e poi mi dite se è fastidioso o meno. Ok, lo togliamo, apriamo, riduciamo un attimino. Ok, vai un poco, la buonasera. Break su 10, buonasera. Sì, io sono fatto, salutore. 9:15, radio 5, saldo. Ok, allora già va bene. Ok, ciao Salvatore, buonasera, dear Mike. Ciao carissimo Sandro, ben sentito, ciao Pomponio e ciao a tutti gli altri amici della ruota, non so chi ci sia, non voglio escludere nessuno, per cui un grande salutone a tutti quanti. Mi direte voi poi pian pianino chi c'è qua con noi stasera. Riprendi pure Sandro, ciao, ben sentito. Ok, va bene, dai. Oh Claudio, con la scusa degli amici, potresti passare sul 20 un attimino, che voglio provarlo in banda in FM? Sì, ti raggiungo subito, saluto Salvatore e lo riprendo. Perché da buon radioamatore, se ti dovesse succedere una cosa in HF, sei morto. Quindi, prima di entrare in radio, ascolti e poi entri, capito? Non lo fare più perché la prossima volta sei segnalato. Ciao Salvatore, buonasera, ben sentito. Datemi un secondo che mi sposto a controllare a Sandro, arrivo subito. Vai sul 20, Sandro. ciao Cla. Uè, Pompo. Poi ieri io stavo provando a seguirlo a Domenico, a un certo punto non l'ho più sentito, sono rimasto a fare qualche altra chiamata per qualche altro minuto e non so, sino a che mi ha copiato. No, io ho chiuso perché non ce la facevo più, ero proprio, insomma, mi stavo venendo a me, stavo montando le baracchino, talmente ero stanco e ho lavorato di mattina da una parte, di sera dall'altra, poi sono dovuto scendere giù da mio fratello, dare la mangiare a mia madre, cambiarla, e così mangiare, giù guardare dove ero morto. Guarda, sono entrata a baracchino per riposare un po' per togliermi lo stress, peraltro. Poi mi sono coricato, mi sono saltato, sono svegliato alle 5, quindi sono andato a lavorare alle 7:20, vabbè, tutto quanto a posto, poi dopo di che alle 11 ho cominciato a sentirmi male, dal caldo che c'era. Sono andato veloce, guarda, sono uscito dal posto di lavoro, preso il centro di sono andato al bar, sono venuto a bere la piano piano mi sono ripreso bene. Col caldo che c'era stamattina, un casino, mamma mia, 30 e passa gravi c'erano lì a riposo, ma non si può lavorare in quelle condizioni. Ci vuole un cappellino, mi dai, procuro un cappellino adesso. E mi bagno la testa ogni tanto, con l'acqua. Mi raccomando, sì, devi tenere fresca la testa, non bagnarla troppo perché se tu la bagni troppo poi ottieni l'effetto contrario, perché tendi a tirare via ulteriore ti disidrati più facilmente, ecco, per intenderci. quindi devi cercare di abbattere la temperatura, però senza mai esagerare, perché se vai oltre poi torni l'effetto contrario. Ciao. Mi sono venuto quasi un intermezzo di acqua stamattina, aiuta di lì. Poi quando sono uscito io trovo, siccome c'è il bar di via all'interno, aiuta, qui non ci bevo per niente io. Secondo me sono tutti dipendenti comunali che cambiati, capito? Tranne io e quell'altro che ci hanno 300 euro solo, capito? Come lavoro dei servizi sociali si chiama. E quindi la famiglia mettere dietro non ci penso neanche. Ma sono andato direttamente alle mie lezioni, ho capito dove abitavo prima, che stanno conosco vivono da quando ho abitato lì, che lui veniva a lavorare col padre che parlava nel morto, adesso il bar l'ha preso lui, quindi mi trovo benissimo, lui sono, quindi come si fa a casa mia? Eccomi. Buona ditta, ciao Cla, ben sentito. E poi, chi può fare te il recupero? Psicofisico, più fisico che psichico. Ancora ci vuole tempo, sabato. Ciao, nuovamente, buonasera, ben ascoltato. Ci vuole un po' di tempo, un po' di calma. Poi io vado già partendo perché sta arrivando il caldo e quindi mi sto rompendo le palle. Imparo il povero, capito? E allora niente. Pianino ci riprendiamo, vediamo se è rientrato Sandro. Sandro sei qua? Sandro? Forse sta ancora provando, riprendi Antonè, ma mi sono scoppato subito, se no magari poi rompo le palle se rimango a lungo lì. Riprendi Antonè. Vabbè, andiamo a Antonè. E qua, a meno che, siccome stavamo parlando di acqua e di birra, non si sia sollevato e abbia deciso di andarsi a prendere una bottiglia di birra. Boh, non so. Come non ci di notte tu, non è perché ci parto il grande coscio. È entrato anche l'altro, ce l'ha l'altro, non ti ho sentito te lo cedi, boh. Vieni, ti stavo per dire la stessa cosa, abbiamo fatto una bella chiacchierata, lunga, io l'ho comprato, non sono tanti, no? Devo dire la verità. Però abbiamo fatto una bella chiacchierata molto molto interessante. C'era Fabrizio, Walter. A te non ti ho sentito, ma c'eri, no? Non c'eri? Hai fatto ascolto? Sì, era un ascolto, sono argomenti che non mi interessano, quindi preferisco non intromettermi. Era un ascolto, sì, infatti sto dicendo, non ti ho sentito, forse in quell'attimo che mi sono allontanato, sono rimasto sino a tardi ad ascoltarvi. Scusa un attimino, che voglio vedere, è arrivato Domenico, così lo saluto. Domenico! Tanto la Salvatore non lo accoppia, lui non ti accoppia, e allora Domenico ti auguro la buona, buon proseguimento, come sempre, se coincide che ho voglia di chiacchierare con l'altra notte, dai, ti aspetto quando stai rientrando verso mezzanotte, se no ritieniti salutato e fatti buona andata e buon ritorno, capito? Ti mando i saluti anche di Salvatore. E Domenico, io quando non voglio partecipare a questi o perché non ne ho voglia o perché come di notte che l'argomento non sapevo cosa dire, capito? Erano cose legate ad argomenti che a me non interessavano e quindi sono rimasto in ascolto, però ho seguito perfettamente tutto e va bene così, capito? Non sempre si può stare in radio, quando si può, capito? Quando si può io ci sono sempre, quando no sono anche in ascolto, così evito polemiche, evito rotture di balle, no? Non me ne frega un cazzo, come tanto uno più uno fa sempre due, capito? Già mai capito, no? Perciò va bene così, si evitano tanti problemi e stai meglio anche mentalmente, fisicamente, non ti incazzi e tutto procede bene. Quando si può due chiacchiere, se no se la prendono in culo. Ah, una cortesia, chiedi a Domenico, e ti ringrazio per avermelo salutato, chiedi a Domenico sino a quando è che è riuscito a sentirmi ieri, perché io ad un certo punto poi ho chiuso perché non riuscivo più a tirarlo fuori. Mi chiede Salvatore Cino a che punto sei riuscito ad ascoltarlo ieri. Stiamo parlando? Molto, molto prima. Come si chiede a me? Prima o dopo di Uschi? No, prima di Uschi, prima di Uschi, dai. È prima di Uschi, sì, c'è la ragione, prima di Uschi. Io ci vado spesso a Tula, che lì c'è il vaccino del Covinas, ma non mi ricordavo se era prima o dopo Uschi. Prima di Uschi, Tula, la piana lì di Mezzerio, se poi continua e c'è il bivio eccetera. K, tra l'altro ho sentito adesso, per un attimo mi è arrivato fortissimo Domenico, ciao da me, ben sentito, quindi presumo che superato Ardara e superato Martis, il bivio per Martis, così? Afferma. Perfetto, ho capito. Siamo dovuti andare già, forse già hai capito, ci siamo dovuti spostare però per riuscire a prendere qualche chilometro in più. No, infatti volevo scoprire un pochettino quale poteva essere la migliore tipologia di trasmissione e anche di frequenza. No, eravamo in USB sulla decametrica. Ma con Walter e poi ti sei spostato? No, era per seguire Domenico. Decametriche? No, come le dite mai queste cose? Infatti, non chiedere. No, non le dite. Se ci fossi stato io, forse vi siete ascoltati quando io ho chiuso, quando mi sono allontanato, perché a una certa ora mi volevo prendere la bustina. Vi avrei graffiato a tutte e tre, a tutte e quattro, a tutte e cinque. Cappa, lo so. Infatti è stata una cosa eccezionale. Va bene. Io sono come Massimiliano, sappio, se sento qualcuno fuori banda, delle bande che interessano a me, non perdono perché a me non mi hanno mai perdonato, capito, Salvatore, sia ben chiaro, a prescindere che sia un amico o non un amico, se io sento qualcuno a 10 metri, lo castagno forte, non perdono manco se è mio fratello, capito? Perché a me mi hanno sempre rotto le palle prima di essere allenatore, quando sconfinavo, sempre. Quindi ho giurato sulla tomba di mio padre che è il primo che sento, che non è abilitato a parlare, oltre la 27 lo ingesso, ma lo ingesso di brutto e senza pietà, ingessato proprio. Lo denuncio immediatamente. Vabbè. No, ma infatti sono cose eccezionali perché fermo restando che io potevo essere a posto, chiaramente posso non esserlo i corrispondenti, e quindi chiudiamo il discorso. Claudio, ciao Salvatore, Claudio. Ehi, Attino, ma ti ho un altro consiglio, stai attento anche tu, perché chi ci rimette c'è tu, agli altri. In linea di massima, manco con le palle ne frega, però sicuramente c'è tu, e quindi ti consiglio di stare un po' più attento. Questo è, lo dico l'amico, e poi prendila come vuoi, non ero in prova, ma ti consiglio di stare più attento. Se ci fossi stato io non sarebbe successo, te lo sto dicendo, sabato, te lo sto dicendo, non sarebbe successo, perché avrei fatto un casino in Gesù Cristo. Dimmi, Tino, ciao, buonasera. Ciao, Claudio. Guarda, se ha cambiato un pochino la radio, che Gabriele mi ha toccato il mic. Oh, bellissimo, come sempre, ti, non c'è problema. Tieni sempre, lo sai, la misura nostra, no? Anch'io sto andando con quello. La misura è sempre tra l'uno e il mezzo, no? Tra lo zero e l'uno, l'uno tanta memoria, non è che però visto che ha manovrato più che lui non poteva essere. Non te l'avrei detto appena mi hai chiamato. Tranquillo, vai Salvatore Cretino Muscolo, che Antonello si è sentato un attimino, l'hanno chiamato. K, ciao Tino, ben sentito, Salvatore da questa parte. Ciao Salvatore, ciao. Ho salutato appena sono entrato, anche se un po' bruscamente. Non è mia abitudine fare break, e Claudio lo sa. E non l'abbiamo mai fatto, ci siamo abituati a non farne mai. Intanto ci conosco la modulazione. Però ogni tanto anch'io lo faccio così, giusto per far vedere che l'educazione mi è rimasta, insomma. Quel briciolo che mi è rimasto lo mettiamo ancora in atto, poi. Che sia un cazzone maleducato, questo si sa per scontato. Beh, come stai? Male, ti sta iniziando a rompermi le scatole il caldo. Per il momento, male, stamattina sono per visita, c'ho il braccio completamente tutto nero, mi hanno detto di staccarlo ogni tanto dal dove è agganciato e metterlo giù, ma mi fa male, mi fa un bel male. Dietro la spalla c'ho un ematoma che non voglio visto. Di poter rientrare il 21 sicuramente, perché sono ancora un bel messo male. Io volevo passare, solo che il mio orario è questo, il mio orario di rientro è questo, e per giunta anche di sabato, che ci do, quindi se qualche cosa da poter svincolare già mi faccio un salto, dai. Vai tranquillo, non ti preoccupare, ti ringrazio. Come se sei passato, non ti preoccupare, so perfettamente il tuo orario, la tua stanchezza, il tuo lavoro, e quindi capisco che è così. Non ci sono problemi. Se eri un impiegato di banca, allora avrei anche capito, però non ti preoccupare. Quando puoi, lo sai, sei sempre ben accetto. Salvatore salva tutti, ci si usa mai detto, non lo segnate Salvatore. Ha fatto bene quello che ha fatto. Avanti Guido, anche a te come te chiedete. Uno dei miei ex colleghi d'ufficio, uno diciamo tra i più anziani, ogni tanto me ne sparava una delle sue di detti, no? Di frasi sarde, e le recuperava tra sassaresi, ologudoresi, eccetera eccetera. Però la più bella che mi rimarrà sempre impressa è Oclà, quando mi disse una volta: Salvatore, fa questa risata, tu devi capire anche una cosa, a me hanno assunto per sedermi nella scrivania, se poi vogliono anche che lavori mi devono pagare di più. Non erano tutti turchi, no? Io mi ricordo sempre quella frase, perché sono stato anche in altro ruolo per qualche mese per sostituire un collega sempre in questo settore, e praticamente lì dove c'è il depuratore dietro il depuratore, poi chiamo il depuratore dietro la zona di San Francesco, lì via aiutami, che adesso ci sono anche gli uffici, ma non me la ricordo, c'è un nome strano, comunque lì, e c'era sempre questo vecchietto che era detto praticamente a taglio dell'erba, a queste ritate eccetera, e a volte le dicevo di fermarsi, diceva, ma come non si ferma, c'è un attimino, ma ragazza, come te chiedete. Sì, due parole, e il concetto è stato sviluppato. Sì, tu l'hai mai visto hai mai lavorato nel depuratore invece della zona di Marreri? No, scusami, non di Marreri, che scende verso Liena, di Pademanna per intenderci, di Mughina. No, scusa Dio, so dov'è, ma non ci sono mai stato, cioè al lavoro, però so dov'è, so perfettamente dov'è, hai già mangiato, sei andato a lavarti, ti devi lavare, cosa devi fare? No, no, Cla, appena uscito dalla doccia e ne ho approfittato a fare la docetta anche a Gabriele, infatti mi sta chiamando, ma vieni a asciugarmi i capelli. Niente, stavo aspettando giusto il Mike per andarmene in quel Rix e fare le cose domestiche, dai. Già sono in ascolto comunque, dai, riprendete voi, al limite, nel caso non riprendo, ritenetevi già salutati, Clara, che tanto finisco di fare le cosette qua di dovere e poi vado a pappare anche io. D'accordo, allora ti auguro buon fine serata, buon tutto e ci riascoltiamo semmai più tardi, se coincide, altrimenti alle prossimine, per te Salvatore. Cappa, ciao, ci sentiamo alla prossima, buon proseguimento di serata. Buon proseguimento di serata, sì. E Cla, mi sto ascoltando. Babbo, ciao Cla, ciao. Così. Ok. Cosa dici? Cosa dico di questa modulazione? Va bene, ottima. Normale, tua vita tranquilla, non burrottosa come di solito io trasmetto, ma va benissimo. Abbruttosa dal sassarese direttamente. Beh, io sempre sto chiamando mia figlia, io trasmetto con modulazione abbruttose. Rende proprio l'idea, il termine rende l'idea bestiale. Bene, vediamo se c'è qualcun altro che vuole entrare tra coloro che ascoltano e non osano avventurarsi. C'è qualcuno che vuole entrare? Avanti, come on! Vedi che c'è qualcuno disperato, lo troviamo. Avanti, Desperation, Desperate Man. Bombolo, ma dopo pranzo poi ci hai mollato in asso, ci hai mollato, così è. Perfetto. Io stavo spavendo, ero in macchina, io quando mollo, forse non ve ne siete accorti, però quando io mollo così di colpo non vi dovete offendere, perché ho sto continuando, non te ne sei accorto che si cambia di stampa e macchina. Registrato il break? No, non me ne sono accorto, no, non stavo guardando a dirti la verità, perché quando modulo la radio, non dico alle mie spalle, però è molto spostata alla destra, molto molto, e quindi proprio devo girarmi per guardare lo smitter, i segnali, sono disteso nel divano. E quindi non ci faccio caso. Ok, avanti il break, buonasera. Buonasera Salvatore, da questa parte Antonio Grosde. Ciao Claudio Spazio. Ciao Antonio Bombolo, buonasera, ben sentito. Vabbè, io lo so, Salvatore, magari non ci ho fatto caso. Quando non risponde Salvatore vuol dire che sta facendo. Salvatore Trini. Ok. Buonasera Antonio, ben sentito. Avanza. Ben sentito anche a Bombolo. Tutto bene, tutto a posto, tutto in ordine, bella serata. Questa qua è classica serata da cena all'aperto, vedi? Ho capito. Invece ho già acceso il climatizzatore qui in casa perché voglio rimanere al fresco e penso che rimarrà acceso ancora qualche altra oretta. Ok, e nel frattempo queste carte le foldiamo. Riprendi Bombolo! Io me l'ho fatto, non ci pare in casa, tanto sono da ricovero, poco fa, ero io, vero? Vabbè, voi siete più grandi di me, a me un pochettino, aspetta, vai. No, non ti preoccupare, Anto, ma stai scherzando, non... No. Ora che so che ti può capitare nel lavoro di mollare il QSO così di colpo è proprio perché stai lavorando e ci mancherebbe altro. Preferisco che tu lo molli 4.000 volte così per questo motivo che per altri casomai più futili, ci mancherebbe altro. Arrivo. Ok, va bene, scusatemi, mi stanno facendo cenno che tutto pronto, tutto bolle dentro la pentola sul tavolo. Vi saluto, a più tardi signori, grazie alle due chiacchiere fino adesso, salutoni Antonio, salutoni Grodde, e ciao Claudio. Ci sentiamo più tardi, se coincide vado a magna. Ciao Salvatore, vuoi seguire con per me sul altro canale? Ciao Sabato, se coincide a più tardi altrimenti alle question. Vai Bombolito. Ciao Sabato, salutoni, ce la sentiamo più tardi alle prossime. Con il furgonetta mi è passato davanti il coso, Sandro. E che cosa? Ma cosa c'è per fare il furgone da lavoro? Sì, ogni volta che rientro alla Urbia, ok, a Sassari passa a trovarmi, mi ha portato due cose che mi servivano e poi è andato via. Sì, oramai c'è sempre la furgonetta e beh, non poteva stare con il coso lì, con la vettura, capite? Ma mi è passato da parte, è passato. Stavo cercando di chiamare, ma no, ma... Evidentemente non ti ha copiato. Non è mai scappato, è proprio 10 minuti e è andato via, era tutto accaldato e rientrano la Urbia, poi il soggiorno in viaggio a destra e a sinistra. Era qua poco fa. E dove sono andato a farsi una doccia fresca e a rinfrescarsi. Ho già fatto. Penso che sulla doccia è alla grande proprio. Ma pure prima già dato. Adesso è molto più rilassante. Lo so. Adesso inizia il caldo e viaggiare se non si è organizzato bene è un bel casino, e vabbè, e cosa ci vuoi fare? Le temperature ormai sono queste, quindi bisogna accettarle e più vanno sicuramente più aumentano. Mantellando e via. iniziamo, magari ci vediamo tutti lì, come facevamo prima, con una boccatoria fresca, fare le chiacchiere, quanto stare a fare in radio, o stai bene che c'è il posto fresco, finestra aperta, eccetera, se no cerchiamo di stare a casa adesso, non tutto capito. Io mi c'ho una radio solo accesa, questa qua, spento già tutto perché sennò poi inizia a scaldare ed è un casino. Ma io ti stavo dicendo che la mia principale partita la carica, a parte che sono un bel imprese buono che stiamo facendo. Oh, meno di quello che la porta a me. Hai detto un sistema poi che adottate sicuramente del volantinaggio eccetera, riuscite ad avere molto molto molto di più, capito? Sicuramente molto molto di più. Yeah, I don't know. detto io era molto preciso, non è che stava lì a girarsi le palle, capito? Era abbastanza preciso. Credo che lui avesse preso la stessa iniziativa, nel senso che se ci fosse stato lui al posto del figlio, l'iniziativa l'avrebbe presa lo stesso. Yeah. Arriva anche Emilio perché l'ho aperto la radio. Vecchio è? È un essere come un mobico, dai, più o meno, come un mobico di grandezza, dai. Avanti la minchiaccia da sosso. posso dire una cosa, a Cagliari Orizzano toccava i 36 gradi oggi, mi segnava il termometro in radio, esterno, vino, interno, pura, proprio pura, segnava 36 gradi, viaggiando con l'aria che pigliava. Ah, funzionava il riscaldamento YouTube, siccome c'era rovinato il rubinetto e l'avevano sostituito, siccome lo sai che tutte quante le macchine puntano la cavetti, perché a chiudere e aprire l'acqua calda, l'aria fredda, l'aria calda, puntano la cavetti, quindi mi ha detto, niente di strano, a come mi sembra, dice che sì, ci siamo mollati, qualche cavetto e non ti fa la chiusura. Siccome dopo la macchina serve, ho detto, male male che va, gli ho detto, visto che la macchina serve aziendale, siccome sono andato a battere col tubo per aprire la mascherina dello Stralis, quel modello micro che abbiamo lui, detto, ci sono due tubi che entrano fra l'aria calda e la fredda, ho detto, li congiungi e l'aria calda dopo non passa più dentro. Ho capito. Ia. Comunque, pensate a lineare, se non lo trovo il coso, dovrebbe servire. Io ho un amico che poi ho dato il numero di telefono a Claudio, che abita a pochi chilometri dalla testa di sui continenti, capito? Che ogni tanto viene qua in Sardegna, hai capito? Il numero di telefono gli ho dato a Claudio, in caso che dovrebbe servirti qualcosa della testa di già abbiamo anche uno sconto lì, capito? E c'è questo amico che abita vicino, questo amico mio che viene qua in Sardegna sempre, e lui c'è il numero di telefono anche Claudio. Con questa cortesia, se in caso dovrebbe sentire, ce la fa, capito? Sì, e beh, almeno così li paghiamo noi, non li comprano qua lui. Eccomi qua, eh. Claudio, vedi un po' l'amico tuo di sotto, sta cercando questo 300, il 303. Glielo ho detto, ma ha detto qualcuno di questo 303, però non mi ricordo chi me l'ha detto, capito? Te l'ho già detto, ma mio. Cioè, mi ricordo... Thank you. sta cercata, non so se l'hai detto. Sì, sì, ne stavamo parlando, io ho detto se non lo trova una cosa c'è un rimedio. Bisogna chiedere a barra nautica, però il numero non so che cosa costa, per lui c'è una cosa di esigenza urgente, o aspettate a trovarlo così, capito? Se no, se barra nautica che abita vicino alla testa di quella che non mettere con su, quell'amico che abbiamo iniziato questa tecnica, capito? Così cosa quello che c'ho io più o meno l'uomo, una cosa del genere, ecco. Non lo so, se poi... Ma dovrebbe sempre modificare lo stesso quello lì, una volta che lo prendi, prendendo l'altro di nuovo, così è, infatti. Era traffico per queste cose, purtroppo. Claudio, Radio Amatore, che sono molto purtroppo a mancare. Quello era bravo su quelle cose, quindi lui era bravo. E niente, stavo a dire per esempio che questo lo chiede, poi siamo andati a Giancarlo. Ah ecco, e lui Giancarlo proprio aveva detto, non conviene aggiustarlo che in finale mi costa quanto a comprarlo nuovo. Mi costa, mi pare, roba di 70 euro l'uno, 72 euro l'uno in finale. Per 72 euro l'uno lo paghi 140 euro e te lo prendi nuovo. E risparmi pure, ma me, a 2B, e c'era uno di quei lineari qui dentro. Io me li sono procurati i lineari sulla verità, li ho fatti, li ho montati e funzionano nella serie di altri 400 di quattro, perché ho messo quelli col coso rosso, quelli Motorola che ho messo, perché i lineari sono Motorola, capito? Della Matrum, come si chiama? Forse per le fabbriche della Matrum, come si chiama il generale della Matrum? saluto, non esco più da una boccata d'aria, va? Ci sentiamo se coincide più tardi, altrimenti alle prossime. Ciao Antonio, Vannino, c'è anche Antonio Bombolo, Gigi, e chiunque fosse in ascolto, va? Buona serata a tutti, me ne esco più da una boccata d'aria, ciao ciao. Ciao Claudio, ciao ciao ciao. che altro vanno in cose, a volte si un baracchino normale, tu questi avanti in aumentata dei presenti, no? Questi senti da come si chiama, dalle gallerie, bocche, così, non si sente benissimo. Invece io, per esempio, in quella stazione fissa, radio, non si sente, io ne sento fino a ma com'è, riesco a ascoltare, e ci potete farlo con loro. Fino a Marcomelli ci parlo con loro, capisco, li sento, però se c'è una cosa normale, se sento molto io risento in via Eti, ma Eti a me non mi sento che darà mai, compreso, invece loro dicono, come io sento a loro, loro sentono a me, capisco, tutto per tutto lì, no, da lì in America, la vedo dei nomi in zona dei nomi di Sardegna, compreso, perché se tu cominci a qualcuno farà pulso torra, il camion e già non ne siete più alzati, non ne siete più alzati, compreso. Non ricevi, hai finito, capito? Quello ti voglio dire. E basta, 78 centimetri, sì, 78 centimetri, trasfilo e carica tutto quanto, però la carica, non so se l'hai vista, tu quella mia, quella unito mia, fa un fondo di fulla, mi canto un buccione nel fondo di sotto, Va. E adattandola, si fa la fase magnetica. E cosa l'avevo presa a coso io? La prima mia me l'aveva presa a Barraghito quando me l'ha vista, non c'è la base magnetica. Quella c'ha la sa, come dice Beto, come si dice il coso, va fino. Hai attaccato proprio così, quella che tiene 20.000 watt, infatti, c'ha un cavo grosso e c'ha l'attacco a pelle, come dici tu, quella pelle, che penso che solo fatto proprio il sopporto per metterlo nella... E poi che toglie l'antenna, viene la visti, c'ha un tappo, sembra quell'antennina famosa, piccolina, che mettono nella vettura nera, un tappo oro, che la vettura è nostro, tipo ottone, che ha visti, una plasticatura, sembra una antennina quando gliela metti a tappo, ha già visto, e togli l'antenna, la generata che la cura, e ripone il tappo, sembra un'antennina di quelle, che c'erano quelle macchine per bellezza dietro, non è mai notato la crisi dei miei antennini, non si fa con questo volo, una cosa del genere. Quanto costa? Quanto costa? Thank you. sono fatte ancora, poi c'è quest'altro amico che a volte mi avrete visto, non vediamo dentro e fa di tutto sul continente. Questo le costruisce le antenne, questo fa sapete che Apollo da Martino le costruisce, questo c'è un amico che le costruisce, capito? Sono tanti che fanno, comunque io rispetto, io però questa antenne dove sono sempre appassionato del fatto delle antenne, ti dico una cosa che le ho fatte arrivare io in Sardegna. Non sentire, infatti io quando ti ho parlato con questi qua nel 2004 addirittura, loro non avevano avuto mai nessun contatto questi qua con la Sardegna, mai nessun rivenditore, nessuna cosa, non tanto io che poi mi ero riposto a Bolzano e Bolzano non interessava, allora ero riuscito a farli arrivare a Oristano, a Marrubio, tramite questo amico. E niente, se puoi immaginare che io le ordinazioni le facevo, io gli dicevo cosa ordinare, non fatto portare anche apparati, mi hanno mandato come campione, un cobra, un magno, e di mettersi gli antenne, i microfoni, cose varie, capito questo qua. E come antenne io l'Avant è un'altra buona antenna, sempre la carica è fatta in argento, sono antenne buonissime, questa forse Antonio l'ha vista io qui a casa da me, è una nuova impulsata, sono antenne che costano, sono molto grosse e pesanti e per le fessure non vanno bene a vista per la capotta, però per il camion, ce l'ho anche l'Avant io qui a casa appesa dentro una busta una parte, quell'Avant nel senso c'è la carica in argento, c'è la carica in argento e c'è pure costato 140 euro, c'è pure un'antenna anche costosa, sono antenne che superano le 100 euro, capito? Ma... Thank you. no, infatti prima ti ho detto io della piena sopra, siccome io vado, vado a queste, raduni che fanno sui continenti, no? Adesso io vado il 7 luglio, il 7 luglio ci sono lì a, Borcomanese, capite? Quando lì siamo in circa 400, quindi arriviamo al sole, tutti i cittadini che fanno artenne, costruiscono, e si vede un po' di struttori, capite? Io anticipo sempre a queste cose, adesso io, questa scena che ti ho detto prima, è quella di Borcomanero, che vado, che partecipo il 7 luglio, capito? Vado lì, già fatto il biglietto in aereo, e tutte le cose, vado lì, per questa scena ci sono tutti questi dagli amatori, tutto vecchio, tutti questi figli, tutti questi, venditori, tutti cose, che spongono la, loro merce, la loro cosa, capito? E ci vado, spesso io, ogni anno ci fa adesso il 7 luglio e infatti si porta quest'anno, capito? Ma, e con questo ti, saluto, dai, a domani se qui. Buonasera anche Claudio Sparviero. Oh, oggi non c'è anche Claudio Sparviero.